guaglio. Che stai ridendo? Ebbene, Antonè, credo fosse già nel doppio room. Nessuno c'è qua. Qua è acceso, ma sono altrove. Sono in cucina. Adesso sto per mangiare. No, non ho sentito nessuno ancora. Ho visto solo per passare due ambulanze vicino a casa. Una, dopo 5 minuti è arrivata un'altra. Evidentemente, tutto di fronte al palazzo mio, evidentemente sono messi male forte, non sono ancora andate via. Sì, magari stanno visitando. E io questi ultimi due giorni non sono entrato, perché abbiamo roba da fare, commissioni da fare, uffici. E quindi un po' una rottura di palle, Antone. Oggi no, oggi era tranquilla. Domani di nuovo roba da fare, andare al notaio. È una rottura di scatole, quindi poco sto entrando, dai. Se no diventa una schiavitù come lo smartphone, il baracchino, ah? Vero? Stanno lasciando la verità. Se avete toccato, se ti avete dato non ho capito niente. Ehi, ciao Claudio, anch'io non ho capito il passaggio, ripeti. Se ti stanno lasciando l'eredità, ho detto. No, sai cos'è? È morta una parente di Taranto, no? E quei parenti terroni che abbiamo, no? Vabbè, anch'io sono terrone, io ironizzo. E quindi c'è una casa da dividere. E c'erano anche due libretti postali e un conto bancario. Poi ha fatto un pasticcio questa anziana, perché ti spiego, si è fatta abbindolare da un operatore finanziario a investire in titoli, ha investito in titoli di non so bene cosa, e quindi è tutta roba che devi vendere o svendere se nessuno ne vuole. Rottura di balle a non finire, va bene, e siccome siamo lontani dobbiamo fare deleghe contro deleghe, roba, cioè il notaio per una firma, no? Sono tre fratelli, mamma, mia zia e mio zio, per appunto una firma per una delega 650 euro in totale e non a testa. Cosa vuoi sia, tu che non fuma già va bene. Cos'è che è tanto talmente alto? Non gli tocca un bel. Ehi, c'è la radio ben alta, c'hai, ben amplificata. Si è fatto l'investimento sul titolo di Amazon, già hai fatto l'affare, almeno ci guadagni qualcosa. Io? No, io non ci guadagno niente. Non entra a me la roba, entra agli eredi. Poi sai, sono vari eredi, ci sono anche quelli di Taranto, quelli di, adesso non mi ricordo il nome, Teramo mi pare si chiami. Va bene. E quindi niente, un po' di scartoffie. Sì, mi ha detto anche cosa, me ne ha parlato con Ivan, dice non è molto, loro anche per quella storia lì, no? Che tu sai, di successione, spese, rotture di balle, ma guarda che tu erediti o rinunci, sempre sono scartoffie, documenti, notai, e una rottura di balle. Ehi, già lo so, già. Io devo ancora fare la successione, anzi io e Giovanna dobbiamo farla per esattezza, quindi quando vado là all'ufficio delle entrate me ne scenderà la mazza come minimo. Ti faccio fare il coso latteizzato se la biglia in culo. Poi vediamo. Adesso mi stanno arrivando le tasse da pagare della TASI, l'IMU, cioè non l'IMU, la TARI. E quindi devo 246-2015 e 246-2019. Adesso devo andare via Wagner, non domani, ma c'è andato un altro giorno. E così mi faccio fare il foglio e non li bago, perché non c'ho reddito, quindi si attacca la puppa, si attacca. L'ufficio tributi devi andare, dove è alta questa radio? Sempre uguale, cazzo, sono in cuffia, ma se li senti? Ehi, sembra amplificato, hai detto di altri, c'hai, questo lui c'è. So che sei in cuffia, se sei in cuffia bassa è logico che ti senti bene, ma noi che siamo vicini, io sono vicino, la proprio attaccata a te, mi sembra che sei a fianco a me come una pentola. Come una pentola? C'è mai pentola, sei tu. Questa che siamo in 20. Ehi, ognuno è tra la sua e non. Vabbè, questa è la radio, se non ti piace. senti la voce. Allora anche Marco. Oh, la radio è la solita, Claudio, è la solita, niente di più, niente di meno. Anche Antonello è forte oggi, se vogliamo, di volume, molto forte. Antonello, o tutto o niente, Antonello, o non esce di radio quasi, o è fortissimo. No, non c'ha mezze misure. Vai Antonello, io fra poco mi sto scaldando della Fainé, che ieri mi ha dato un marraggio, coso, già lo sai, Ivan, un marraggio di Fainé e me la sto scaldando, perché buttare la roba non si butta, non va bene. Mi aggiungo un po' di pepe nero e un bijou. L'abbiamo anche ammorbidita con una cosa che ha messo mamma, non so cos'era. Ok, ci aveva messa per l'alluvio, capito? Senz'altro. No, di allora va a fare riscaldata anche di Novari. L'avevo comprato una sera a me, per me, per Giampiero, una teglia grande, figurati, e poi ho dovuto dare anche a Giovanna, perché Giampiero ne ha mangiato poco, io lo stesso, io ho 4-5 fette o di più, perché poi mi buria, capito? Dopo che è arrivata Giovanna, Giovanna mi ha detto, mi mangia la tua e non c'è problema. E basta, avevo pigliato la cosa, la Oggiano, quello che c'è via da cosa, via Tepi, no, mi sono fregato un pochino. Sì, naturalmente scaldata c'è un abisso rispetto a quando arriva fresca, è proprio abissale la differenza. Però ce n'è rimasto un bel, io buttare non lo voglio buttare, dai. Adesso controllo la cottura. Dai, riprendi Claudio, che poi appena è pronta vi saluto e proseguite, dai. Ehi, vabbè, non bisogna buttare mai niente, infatti. Va bene, cappa di Rogero, via, lasciamo qua, non ti preoccupare. Con Antonio lo sento benissimo, non è amplificato, va bene. Ok, dai. Comunque, già va bene. Lo sento, io non tocco mai niente, quindi questo è il microfono solito. La radio, vabbè, l'accompagna il fratello, la sorella del 440. È una modulazione perfetta, anche se alta, è molto chiara, quindi va bene così. Già stai scendo bene, ho abbassato il volume appena appena, così ti sento perfetto. Allora, vabbè, io non so usando questa lettera, lo stesso, la lettera c'è la Giovanna giù, l'ho lasciata lei giù adesso. Adesso vai, devo smontare quel mobile dove c'è il baracchino e sistemare il baracchino da un'altra parte. Dicendo il cavo, le 10:58, dicendo così passo, io la metto gira in camera da letto, ci metto 2 o 3 chiudini, se non se ne accorge qualcuno del palazzo che subito lo fanno le balle, cos'è questa cosa, in facciata? Ci hanno detto, il giorno che ho passato la canna alla pesca, dopo 10 minuti ha telefonato, cosa hai messo? Ha detto una canna alla pesca, ma la canna alla pesca si vede troppo, dovresti togliere, no, tanto io non tengo niente, ho detto che non so come sopportare i miei nipoti, gli ho detto, a me lo parlano al baracchino, ho detto. Allora dice, abbassa la coda, rialzi, sì, gli ho detto, faccio tutti i giorni così, gli ho detto, mi viene la paranoia, la giubiliato e la canna da pesca ce l'ho conservata qua a casa, e gli ho messo il cavo nel terrazzino, già esce benissimo, a me non l'ascolta, è appesa nel, come si chiama, lungo la vetrata, quella in plastica. Già va bene Antonio, già va bene, non c'è problema. Gappa, non mi sto guardando la televisione, sto cacchio di governo, cosa vuole fare, cosa non vuole fare. Campus alla Mela Verde vuole chiudere tutto. E anche se chiude tutto, vanno lì a Palazzo Ducale tutti e non lo smontano da Cristiano, perché non si è degnato a fare nulla, ha fatto solamente quel lavoro in quella via là, e ha tolto quella specie di muretto che aveva fatto il sindaco qui, che basta, poi non ha fatto nient'altro, tutti i lavori del comune sono tutti bloccati, hanno fatto un accidente, hai visto il camminato, tutti i tubi lampati, ci vorrebbe solo qualcuno che se li carica in camion e se li porta in campagna e si fa l'impianto per il coso, per scaricare l'aereo, tutto nel fiume qua. Vabbè, quello è un rapporto pubblico, si è fallito, per colpa mia. Hai fallito, non so cosa dirti. Già li ho visti, ce li hanno avanti, figurati, una volta mi faccio al poggiolo, ci sono questi tubi mezzo alle balle. Già lo so, e vabbè, riapporteranno, la finiranno questa cacchio di via Milano. Pista ciclabile, non ciclabile, boh. E adesso che ci sono le elezioni stanno asfaltando tutto, beh. Hai capito? Ho visto sono davanti ieri asfaltando. Tutta la zona di Carbolazzo stanno asfaltando. Anche via Milano. Ieri via Carbolazzo l'ho fatto. Lasciamo di fare, già ci sono i soldi. Quando ci sono le elezioni, i soldi ci sono sempre. Adesso viene, capito? Vengono i cosi, i ragazzi. E quindi almeno un asfalto bello, nuovo di fatto, no? con i fossi come c'era prima, no? Che ci scendevi molto, tutta completa, cazzo, nei buchi che ci sono. Da quando ho fatto quella pioggia famosa, tutta l'asfalto, tutto abbiato era. Ehi, stiamo asfaltando perché ci abitava un po' di onorevoli, anche via la Malfa l'ho fatto, c'è per quello, quindi via la Malfa, la parte via Forlanini, la parte di via Carbonazzi, e stanno facendo, lasciali fare, ci stanno facendo il buccio. Sì, via Morandi è tutto pieno di, c'è il palazzo dei comunisti proprio, già lo sai lì, è tutto palazzo dei politici sono. Adesso tutte loro sono, quelle villette a schiera. Sì, anche qua anche a Milis c'è, anche qua in bel palazzo, c'è una di fronte, vinne, non ti preoccupare. No, il quartiere fa schifo, non perché asfaltino le strade, il quartiere fa schifo. Ma c'è più, non si può camminare, perché ci sono tutti i rami lunghi delle siepi che ancora non hanno portato, quindi faccio una cagata loro e l'asfalto, che puliscano bene il quartiere invece di rompere le palle. Io lo so. Ho chiesto a Gianfranco che lavora lì a Comune, già lo conosce Gianfranco cosa? Gianfranco Simula quando parlava a Baracchino. Beh, tu dici, Antonello è tutto bloccato, mi ha detto qua a Comune. Non stanno neanche assumendo giardinieri, figura di nulla, dice tutto bloccato. Io ho detto, me lo sono immaginato, ho detto, questo sindaco Campus voleva fare un sacco di roba. E invece non ho fatto niente. L'unica cosa che si è messo in testa è di fare adesso le case per gli studenti giù a Piandanna e basta. Sei buono con gli studenti. Sindaco di merda, lo è stato prima e lo è anche adesso. Ma va bene ai cittadini che l'hanno votato. Io di detto già non l'ho votato. E se no io. Adesso quando finirà lui ci saranno le elezioni nuove, già ce lo butto immediatamente fuori, ha finito di rompere le balle. E adesso, dopo che è andato in pensione, se vuole fare il nuovo sindaco per aumentarsi la pensione, non l'ha fatto per altro, se fa quei 5, quanto sono 5 anni, quelli che sono, per aumentarsi un po' il budget della pensione. Intanto non è meglio di no, è stato alla regione, è stato alla Camera dei Deputati. Si è ritirato, che poi non si è ritirato perché c'è lo studio, quindi lavora in privato, capite? L'Americo, ha letto la sindaco, per carità, che la gente morendo di fame. Sì, c'è cosa uscendo di testa, Antonello che si vuole, se vuole candidare anche lui. Mi ha giocato, se ti candidi già sei incoglionito adesso, gli ho detto, figurati quando sarà candidato. Quando devi fare a lui metà delle ricette sono tutte quante sbagliate, mettami. A posto di fare la numettura le fanno meglio un altro, non al nuovo indietro. Sta andando male le cose, Antonello, chissà che cazzo c'è di pensieri c'è in testa. sento meglio il tuo medico. Eia, il mio medico, io l'ho visto che è in politica, voleva fare per forza il sindaco, voleva fare eccetera eccetera, ma che prima era consigliere comunale, gli altri ricordi, rompeva le balle e basta. Adesso vuole fare il nuovo, alla regione vuole andare, e allora ha detto già, se va alla regione l'ha arrivato, ma allora così si andrà a mettere le balle, non lo vediamo più che. E lascialo va, ci ha fatto il meglio. Per carità, ce ne vuole intanto. Quando non c'ho le elezioni che ci devono candidare, tutti sono bravi. Non esce, ma con la bocca. A voi fatene tutti con un burro, ma... Allora se sì, candidano, ti conoscono tutti, tutti ti conoscono, tu mai conosciuto, te li vai, carissimo amico, eccetera, eccetera. E che cazzo ti hai mai conosciuto? Capito? Tu magari vai lì per chiedere un favore, non posso fare niente. Succede sempre così, ci sono pochi di genere. Guarda, ormai ci sono la fila delle donne che vanno ad accusi. Gli assessori, cosa del genere, perché chiedere favori, in cambio di sesso, ha voglia. Infatti, la voce di Sudoria, vedi poco di gente andando da lui a chiedere favori. Si chiama Carlo Doria, io l'ho chiamato Andrea Doria, lui si affonda prima. E cazzo, gli auguri bene già. No, guarda, lascia perdere la politica, lascia. Sono un anno io non ci vado a votare, non mi interessa. Non ho mai chiesto niente, non mi hanno mai dato niente, anzi, non ho chiesto loro, ma... Quindi, lascia perdere. Sono una massa di magnacci, basta. Non fanno altro che promettere, promettere, poi... Manco ti cagano. No, io, grazie a Dio, solo babbo ce l'ha dato una volta da un politico a chiedere se mi assumevano. Sono andato come un imbecille, sono andato, guarda, ti faccio questa lettera, la porti a questo amico mio e guarda che ti fa entrare. Ha già redatto la lettera, tu hai visto la risposta, che tanto l'ho visto io, ha detto dire che se la biglia il culo, gli ho detto quello là, lui è macchina che c'ha in testa, gli ho detto. E che mi mandi più lettere, di amicizia, come faceva prima, carissimo amico mio, volevo la lettera, tra l'altro la facciamo. Solo il momento del bisogno, ho capito. Vabbè, devo dire, non c'è nessuno che sta canale, a parte Marco, non entra nessuno perché la mia radio è troppo alta. No, magari stanno facendo cosa, non lo so. Senz'altro stavo facendo roba stasera. Io sono andato perché ho 10 minuti liberi, poi devo fare i piatti, devo fare poi alle 7:30 devo scaldare la roba a Simona e da lì e fargli la cena. Tutti i giorni sono la stessa plastica, poi domani sera sono mia alla CAF. Perché ho fatto il rinnovo dell'RDC e mi deve dare la ricevuta che è arrivata dall'INPS, come hanno accolto la domanda per altri 18 mesi. Poi ho finito i 18 mesi, ciao, buonanotte, si è andato un cane in culo, no, lo è questo cazzo di carta. Aspetta. E cosa ti è successo? Ora ti stavo sgozzando. Sono attento con la farina che ti può andare di traverso, Marco. E via. Non parlare perché è pericolosa la farina, soprattutto così quando è il giorno dopo. Rimane un bel città, capito? Ed è un bel pericoloso. Aspetta che mi tocco le palle. Sì, a me vedi un goccio di vino o qualcosa. Però non parlare, sennò... Te la puoi uscire dalle orecchie, per non dire che te la puoi uscire anche dal culo. Cazzo, ce la vuoi bene, già. Vuoi bene? Un amico un giorno stava affogando, se no con un colpo di paddi, una cazzata di tre bedi. Stavo mangiando proprio la farina, anzi, bugia mia. stava mangiando dei savoiardi che sono molto molto asciutti se tu non li, non li bagni. A Santa Maria Covina c'era qua a un pranzo, ci hanno parlato dei biscotti, delle cose, c'erano anche savoiardi eccetera. Ci ha messo in bocca il savoiardo, poi ci ha messo a parlare, gli è andato di traverso, gli sono fatti gli occhi, ma lo sai commenti, ha detto boom, lì che morendi. L'ho preso, ho catturato un colpo dietro, gli feci dove sei lo savoiardo, quindi dall'altra parte del muro, stava per affogare. Sì, figurati, la roba asciutta è così, me se parli. Ma anche la roba piccante fa così a volte, perché quando c'è mal di gola, per dire roba piccante è peggio, rischi di affogare proprio. Vabbè, mamma diceva sempre, mangiando non si parla, capito? E quindi bisogna continuare a rispettare le regole. Quello già è vero, vabbè, se hanno bevuto la fede con, ci aveva messo un po' di olio senz'altro, l'aveva scaldata per non essere asciutta. Lo so, la fede è peggio delle pizzette, so. Anzi, le pizzette sono peggio, quelle con la mozzarella. Quando devi scaldare il fornetto, ui, ce ne vuole inghiottirle. Poi Tantone, mai l'hai sentito tu a Daniel d'Auristano? Ti è mai capitato qua nel canale 10 o in altri canali? No, per il momento no. Villa Cedro sì, lo sentivo, ma ti parlo quando abitavo in Via Rizzeddu. D'Auristano proprio qua non è mai capitato finora. Già c'è. Io con Antonio Bombo l'altra sera parlando qua. Ho sentito un break. Santiago 5, ho fatto entrare la Bania d'Auristano, c'è anche la registrazione, mi ha dato quasi 9. Santiago 8, abbondante, 7-8, abbondante. Proprio così, con 20 watt. Non ero con questa radio, però con 440. Questa è l'altra. Arriva benissimo qua. Altro, non ha mai sentito nessuno da Sassari, non sente nessuno da Sassari. Lui gira sul 10, se sente a me parlare, allora entra, capito? Santiago 5 mi arrivava, io arrivavo 7 o 8 abbondante, mi aveva radio fortissimo. C'è da fare. C'è una zona buona tu me, sei aperto per là, io sono chiuso. Oramai, se fosse stato dove abitavo prima, lì in Via Rizzeddu ti ha voglia, mi avrebbe sentito tranquillamente, perché lì sembra più basso, ma è molto aperto, capito, per il centro Sardegna. Immaginati che io, quando c'era Giuseppe Altamura, con la ritmo che c'aveva Bianca, lo accompagnavo tranquillamente fino al passo di Correbui a Nuoro, figurati, arrivava a 9:20 a Sassari dalla macchina e c'aveva anche 100 watt addirittura. Lì quella zona era bella, parlavamo con Villacito, dietro Riccone, con Giampaolo, eravamo pochi, eravamo io, tu, Vittorio e Angelo Delfino, che arrivava lì da Verghero, tranquillamente, perché quella zona era aperta. Riusciva ad arrivare, che era una posizione buona, Gianni di Lune Sole, eravamo pochi, pochissimi, contatti proprio nel palmo della mano. Già me lo ricordo, nei tempi. No, ma io ho rivolto le porte, c'è un problema. Centro sud di Sardegna lo faccio alla grande truppio. L'altro giorno stavo parlando lo stesso con Coso, che era lì a Macomer, con Giovanni, che è lì a Macomer, abita, stuoi dentro Macomer, all'ingresso a Macomer, sulla destra c'è un'antenna, una mantova, quella era sua, vabbè, c'è la mantova, c'è un'altra antenna perché era un torre. Eravamo in 40 metri e mi ha detto prova che proviamo in 27. Ho detto se c'è potenza, io non ne ho problemi, io anche con la potenza della radio ti arrivo. Infatti lui liscio mi arrivava a 2, poi attaccato l'amplificatore mi arrivava a 7. E gli arrivavo a 7 senza niente, senza amplificatore, quindi non ce n'è problema. Va bene. Marco, ho finito di mangiare la faina calda e la calda. Buona, nonostante fosse una faina riscaldata. Sì, deve avere la spennellata d'olio e è uscita buona. Naturalmente è non paragonabile, ripeto, a quando te la portano dal forno, però mangiabilissime, dai. Ci ho messo un mare di pepe, c'era più pepe che fai ne. Ascolta Claudio, ma è questo ragazzo che modula da Oristano, ti ha detto se c'è una ruota lì o c'è solo lui che modula? Pochissima gente c'è. Però lui quando sente a me allora entra a salutarmi. Già un paio di volte è successo, una volta è successo c'era Gianni con Giulio. Ed è entrato a salutarmi. L'altro giorno ero io e Bombolo, ho messo sul tardi, verso le 9, forse 8:30, 9, dai. E mi ha sentito, anzi veramente ho sentito io il break, perché ha breccato. E quindi ho fatto due chiacchiere perché Antonio manco, non sentiva manco il QRM. E allora niente, così. E già arriva, comunque a me mi arriva molto molto bene. Io la prima volta che ci hai parlato era giorni fa, però qua a zero totale, proprio non sentivo il soffio del ricevitore del baracchino, ma niente da fare, non può arrivare qua assolutamente, troppo in basso. Sì, forse quel giorno lì, non mi ricordo quando, sono su WhatsApp, ho fatto sentire, ho fatto la registrazione, c'è un po' di QRM, bombolo, no, l'ho cancellato, non ce l'ho più, comunque, vabbè, dovrebbe per Antonio la registrazione. Sì, ma mi fido, ci mancherebbe, già mi fido. E d'altronde mi, se non lo senti tu non lo sente nessuno, non lo sente nessuno. Claudio, ma tu all'epoca ti ricordi anni 80, no, quando c'erano le solite superpotenze? Io non mi ricordo se tu facevi le prove con loro, no, i soliti forti, no, W, Marco anche c'era, ma alla fine chi passava a quei tempi? Chi era il più forte che riusciva a avere sempre così maggiori? Segnali, controlli migliori, in poche parole. Allora guarda, io li trattavo tutte e tre da tutta l'altra parte, quindi centro e sud di Sardegna ero sempre il vincitore, number one. Perdevo qualche segnale dalla parte della costa, però arrivavo benissimo. Però se loro per esempio prendevano, per esempio quando ero libero Francesco Briscolone a Baresi, loro arrivavano 9:20, io arrivavo 9:10, 9:15, però arrivavo, è chiaro che loro erano più aperti, però, capito, erano più aperti. Però su a Villa Cidro ero imbattibile, quando c'era Villa Cidro, la zona di Nuoro Oristano, era imbattibile, non c'era trippa per gatti. Mi sono sempre difeso bene, non c'è problema. Ma tu già dagli anni 80 eri lì, cioè prima eri lì, quanto avevo capito, poi ti eri spostato di casa e poi sei tornato di nuovo dove sei adesso, giusto? E quindi la posizione buona ce l'avevi allora e ce l'hai adesso. Anche via Pascoli, no, anche a Pascoli sono rimasto poco, via Pascoli sono rimasto poco, era un appoggio, capito? Era un appoggio, sono rimasto due anni e mezzo, non di più, e poi sono tornato qua perché c'erano ancora i miei suoceri qua, capito? C'erano i miei suoceri qua, io prima andavo piano, io ho fatto alcuni investimenti, ho venduto l'anno piano, ho fatto altre cose, poi sono tornato qua perché la casa, questa casa tocca a mia moglie, capito? Erano i miei suoceri, infatti non ho toccato niente dal tetto, io non avevo tolto niente, assolutamente. C'era, quando l'ho lasciata e sono tornato, c'era la manta, ma poi visto che era un po' vecchiotta l'ho messa nuova, ma no, non avevo toccato niente. Sempre qua sono, nel 1985. Vediamo una domanda per Antonello Pomponio, se c'è. Antonio ci sì. Ma anche Antonello è c'è e non c'è, fantasma, salta da una camera all'altra. E d'altronde Simona lo chiama, giustamente deve andare. E infatti. Va bene, no, ma io dico sempre a tutti, l'ho sempre detto, però non se ne possono fare, perché quando ci sono delle persone che parlano da così lontano, infatti Dani ha detto, non c'era Antonio, l'ho fatto sentire la registrazione, non ho capito perché cazzo, ah sì, perché mi ha riformattato il telefono che non funziona. 8 messaggi contro messaggi, ma l'avrei formattato, porca miseria. E vabbè, no, mi ha detto appunto che ma già c'è l'Antonio, gliel'ho mandata, gliel'ho fatta sentire, quindi penso che la tenga lui, magari me la faccio rimandare, me la tengo io. Ha detto che non ha mai sentito nessuno la Sassari, mai e poi mai. Quindi, a me mi sente spesso, magari se in ascolto e mi sente spesso, e quindi ci ha provato una volta, poi si arrivava e è arrivato. Stavo parlando con Gianni, con Giulio, qua nel 10, era entrato. E l'altro giorno è entrato e stavo parlando con Antonio, ho detto aspetta, c'è un break da lontano, vediamo chi è, ed era lui. Che è? Minchia papà, aspetta un attimo, devo rispondere. Eia. Prova. Prova. Ma. Antonello? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Certamente. Ciao già, c'era Claudio Pomponio, poi Claudio ha risposto al telefono, Pomponio è andato forse a bere. Ha perso una bionda. Aspetta, Marco, c'è un telefono. Eia, Pomponio non credo che ne beva acqua. L'acqua fa marcire le ossa. Io sempre acqua, mi anche adesso a pranzo, acqua. Però frizzante, se no è. Sembra acqua del rubinetto, se no. Ciao già, sto entrando già a meno poco perché abbiamo cose da fare, un po' di cose da risolvere, domani lo stesso, quindi prendiamola con filosofia. Siamo qua Marco, scusa per il telefono che mi ha chiamato Tonino, mi doveva dare un'informazione, ero qua, chi è entrato? Ciao Claudio, già. Ciao già, buonasera. Eia. Stavi dicendo Marco che hai molto da fare a casa, perché è venuto il carabiniere. Ah, il maresciallo, no, non è venuta, no, ci abbiamo cose burocratiche da spiegare, ne ho accennato prima a Claudio, e poi te lo dico, da, non sarà la mia ripetere tante volte. E quindi uffici, coso, una rottura di palle, per avere le briciole poi, perché briciole arriveranno a me, se andiamo in pari è già di lusso. Vai Claudio. Sì, vabbè, l'importante è che arrivi qualcosa. Io da poco sono uscito, abbiamo fatto diviso la casa di Ittiri, da poco non siamo usciti anche noi, hanno perso un Beccari, sono un Beccari. Ho toccato quasi un ettaro di olivetto, cazzo, boh, me ne pongo in culo, arriva. Ho già mai fatto, arriva, ma li compresce. Fai le olive confettate. Pongo un ettaro elastico, inizio da sopra il tetto a tirare olive a tutto Sassari. Ah, ecco. Ho già trovato uno, l'ho fatto a metà dria. Ecco, arrangiati. Fai tutto quello che ti piace. A me mi dai l'olio quando lo fai, il resto arrangia di due, a me non ha funzionato. Sì, noi facevamo lo stesso, avevamo il mezzadro a Florinas perché erano rotture di scatole, non vivendo lì con la casa dovevamo andare avanti e indietro, però il mezzadro si era poi trasformato in mezzo ladro, capito? Si inguattava un po' di roba, uva, vino, olio, olive e non solo. No, lì c'è solo l'olivetto. No, c'è la casa è chiusa, ho un duro a gasetto. Cioè, me l'ha detto anche va a appoggiare la cosa, no, la cosa della buccia a casa tua, la casa rimane chiusa. Ho messo tutte le cose nuove, lucchetti, serrature, balevarie, c'è anche la casa, c'è una casa di una settantina di metri quadri. Sono due stanze da letto, caminetto, un salone, grandetto, capito? Abitabilissimo perché mio socio ci andavano sabato e domenica a fare lì. Quindi c'è l'acqua, non c'è più la luce, l'avevamo fatta, l'abbiamo attaccata, c'era anche il telefono, figurati allora, quando esisteva la linea telefonica. Vabbè, comunque è lì a Caparreddo si chiama la zona, praticamente di fronte al Cuga, la strada vecchia che scende, quando tu esci da lì ti anziché fare la strada. la nuova, la vecchia che poi ti porta a tutti i figari, capito? Lì giù, caparrendo schiaffo, è una bella zona, non diviso a poco, voglio sapere, si è preso anche questa cosa, questa carità, era un bacciagetta lì, un po' raghissano, ruia, fai una rottura di palle, avrei tutto, bisogna dare tutto e tenere solo i contanti, sotto il materasso possibilmente, perché se li metti in banca te li tassano e boh, è che ormai vedrai che stanno spingendo con la scusa anche Covid, non Covid, per eliminare il contante, vogliono vedere ogni centesimo che spendi in modo che sia tutto tassabile, e lo faranno, non dico adesso fra un anno, ma fra 10 anni, forse anche meno, chi lo sa, speriamo di no. Riprendi Gianni, io vado a bere e poi mi organizzo qua una cosetta da fare. Già ci sono le banche che ti rimangono di là, tu da Sadio, tuia, mi sono arrivati 16 euro di movimenti l'altro giorno, 16 euro da pagare. 16 euro? No, io ho l'intesa, non pago niente, non so perché, vabbè. Una settimana giù non la giovane facendo lavori via di San Francesco, ma a favore c'era bui affittare, perché cosa, per sfasciarti tutto, vabbè, cazzirolo sono me, ma se io abbia il mio non me ne affitti nulla, mia moglie e mio cognato stanno facendo gli investimenti, delle cose, spostamenti. Arrangiatevi, non ci metto lingua io il mio ce l'ho e non basta quello che ho. Ok. E tanto qui tu non è che problemi c'hai, anche devi sapere che tasse, questo e quell'altro, lui. Tassi, e tassi, sono i tassi, mi sa. Sono i tassi, lascia perdere, c'è un po' di spese, un po' di vabbè, comunque. Un po' per il momento è quello da dividere, perché era in stato di abbandono. L'anno scorso ho preso la multa perché è lui il più grande di mia moglie, quindi praticamente ha fatto come garante erede una buona cosa del genere. Dopo la multa di 500 euro l'anno scorso, perché non avevamo mandato il trattore a tagliare l'erba di Accaparreddo per l'emergenza incendi, Rosario. Ah, non sapevi dove tagliare l'erba, c'è l'obbligo, adesso c'è l'obbligo di tagliarla, entro quelle mesi lì la devi tagliare per l'antincendio. Io non sapevo niente, lui è sempre mai fatti suoi, e allora gli ha rifatto la multa, perché è lui il responsabile. 500 euro e gliela pagata, infatti io ci faccio metà, e allora fatti la baga e t'arranci, ma stessa la mattina. Infatti quest'anno è stata tagliata dal tempo, tutto pulito, tutto ordinato, portati gli alberi, c'è questo mezzadro appunto delle olive, fatto tutto. Vabbè, ho lasciato dove di là, cazzo, di tutti i beni che ho lasciato mia suocera, cazzo, a quest'ora avrei camminato con l'uccello fuori Piazza d'Italia. Ma devi fare anche, oltre a tagliare l'erba, devi fare gli spatti fuoco, devi praticamente fare delle, come si chiama, delle lingue spatti fuoco, nel senso che non posso andare avanti il fuoco, capito, quando ci sono incendi. Sono dei solchi che devi fare, no? Di modo che non arrivi il fuoco. Ma cos'è adesso che va? Se te trovi c'è un ettaro di olive, cos'è? Sotto gli alberi di olive, tutti in linea, tutti in fila. Infatti è una povera suocera, ragazzi. La città ne va poco a quell'olivetto, ma avanti è bello, ma bello però, fa tutto pulito, fatto. Oh, l'erba in giro la campagna, no, dentro la campagna, dentro la campagna non ce n'è dietro. In giro, praticamente dal cancello, tutta la recinzione, tutto il muretto, tutte queste cose, capito? Dentro non ce n'è, dentro è tutto aratto, è tutto pulito, sta accendo c'è un metro di olive, di olive. Dentro è tutto pulito, non fatto la multa perché abbiamo, non abbiamo pulito tutto il, praticamente il fronte strada, tutto quello che c'era da pulire. Ma infatti anche quello lì come si secca l'erba, può fare attizzare l'incendio, capito? Quindi è per quello che chiedono di pulire tutto attorno. Comunque non so, chi alla campagna c'ha dei problemi. Forse se c'erano delle vici, ma no, che non ti fanno manco muovere. Lo so, però se le leggi dicono che devi tenere in ordine, devi tenere in ordine, se no è un casino, vabbè. Non mi ha lasciato in succi di roba, per carità, cazzo. Tutto da sistemare, da fare. Stiamo accatastando piano piano, facendo documentazioni, balevare anche stamattina. Ero a portare a fare i documenti a mia moglie, che serve, mi viene curvo. Va bene, inviare bisogna farli, no, avere bene, bene non te ne fa niente. Sono solo a buttare via soldi. Ma Luca non c'è più, Luca lì. Lei stava gestando nel caso della mamma, stava facendo la riparazione. Questo Antonello che sono un bel alto di radio. Antonello ti ha detto che secondo me fosse vicino a casa tua, è normale. Io avevo una laptop, l'ho registrata l'altro giorno con Massimiliano, basta. Ognuno di te la gioia, avevano i beati della giamba. Questa è la radio e questa rimane. Non devo stare a cambiare, a fare, abbassa, tira, molla, poi. Forse perché siete vicini, io non la sento sempre come esci di solito, capito? Sì, va bene, è forte, però non è che sia più alta delle altre volte, è sempre uguale. Sì, ma infatti, io mi ho messo le cuffie, va bene così. E questo è il 140 con l'SM20. Abbiamo fatto un esperimento con Luca, se andava bene, e ho visto che va bene, quindi abbinamento Icom e Kenwood. Se non la visita avrei pensato che fosse la BC60, sinceramente. No, questo è l'SM20, mi ha dato anche la foto ieri. L'SM20 della Icom con l'adattatore Kenwood e la radio 140. Va più che bene, va più che bene, ma... Sì, mettiamo in lecca lecca, così le mangiamo il cervello a Claudio. Prova, prova, prova. Ma che tu col che è così? Beh, a me me ne mangi il cervello, a me più casino fate più mi piace. L'amico tuo che non piace mangiarmi nel cervello, sempre la mentendi, si abbassa qui, abbassa là. Vabbè, ma lui lo sai che è un purista delle missioni, no? Sono due modi diversi di concepire la radio, lì, ma non te la devi prendere a male. Diciamo, ti chiamiamo l'uomo dell'armonica, come quello del film, di cosa lì? C'era una volta lui, l'uomo dell'armonica. Cazzo, se dici fratelli carissimi, ma non prendi. Il culo la vedi tutti e due l'armonica, voi. L'armonica a bocca va vedi tutti e due. Aspetta che levo questa porcheria. Ecco qua, ah, guarda che bello, eh? Altro che ecco, No, va bene, Marco. Va benissimo, la grande, puoi aumentare per me e fare il stagino che vuoi, no, me la fotti un da me, a me più alta la radio più mi piace. Ma lo sai che in questo microfono, la capsula microfonica di questo mic non ha sbocco verso l'esterno, cioè non si affaccia sulla feritoia frontale e la capsula condensatore è annegata nella plastica, non ha sbocco con l'esterno. Io non capisco come mai una soluzione del genere, proprio non lo capisco. Forse è proprio per evitare modulazioni eccessive, casino, capito? Va bene. Signori, io quasi quasi stacco che devo organizzare una cosa da fare. Ok, c'era anche Antonello, ma non è rientrato. Casomai rilanciatelo. Dai, ciao Gianni, Claudio. Sentiamo quando capita, ok? Vai Gianni. Ciao, vai a fare questa cosa, vai. Ci sentiamo. Buona serata, siamo qua. Gianni, è che Gianni non c'ha una bella voce acuta, forte. Io mica sto facendo bassa, per me posso levare ancora di più. Non ho tocco di radio. 4.20, poi 4.30 4.60, nel 4.40 4.60. Lascio questo, me la futti lunga. Esce bene, e sono contento così, KK. Non c'eri l'altro giorno, avanti ieri stavo parlando con lei. Non ricordo, se domenica, forse domenica sera. Stavo parlando con Antonio Bombolo, è entrato di nuovo Daniel da Oristano. No, Fabio, io domenica avevo ospiti e quindi non ho acceso per niente proprio. Non ho acceso, c'erano ospiti a casa. Già va bene, già lo so che tu c'è l'altezza, già lo credo che fa. È l'altezza di naturale. Allora io ho sentito questo break a Santiago 5, fatto tante break, ed era Daniel di nuovo, lo ristavo. A me mi ha dato 7 lo stesso, 7-8, abbastanza bene arrivato, ma così mi con questa potenza, 20 watt, 20 watt, 40 modulati, no, non c'è bisogno, non ho bisogno io di lineare già. Adesso è che stamattina mi è impegnato, poi a San Camillo mia moglie va a fare una visita per la documentazione che gli hanno chiesto della pensione. Poi ero impegnato con mio cognato qui e là, cioè, domani mattina c'è un altro impegno, ma veloce, poi me ne salgo sul tetto. Se fa la giornata di oggi, sto tutto il giorno sul tetto, a costo di farmi portare il pranzo in mansarda. Devo fare due cambiamenti, due spostamenti di qualificazione e la manta va la metto dove c'era il traliccio delle direttive ed è 2, 4, 6, 8, 8. Metto il bike, è già pronto con i tornichetti, 3 sotto e 3 sopra, a centro, allora giganta messa, allora vedrai che il poco ne scende da solo dalla trave. Fai. Oh, morpori oggi, È tutto vuoto, il 20, il 23, il PMR, tutto vuoto, Ma voi state entrando, per esempio questi due giorni che non ho acceso, state entrando oppure è tutto vuoto? Già sto uscendo, sì. Sono qua, Marco, mi sono andato a bere, tanto Gianni era al telefono. Ehi, c'è qualcuno che vuole entrare, adesso lo mandiamo avanti. Vabbè, io tanto mi sto trasportando il computer, così mi faccio qualcosina al computer. Lo metto sul tavolino qua davanti, così metto il volume al minimo, ascolto un po', passo il tempo, eccetera. Ti volevo dire, ma in questi due giorni che non ho quasi acceso praticamente, state entrando, perché c'è il 23 il vuoto, il 20 vuoto, il PMR vuoto, non c'è nessuno da nessuna parte. Non lo so Marco, io se c'è gente parlo, ieri ero qua, ho fatto le chiacchiere con Vallino, che è rientrato da fuori, stavamo parlando del più o meno, poi è entrato Luca, poi a una certa ora io ho chiuso, non so chi è che c'è, chi non c'è, ma di solito mi capita verso le 10, così 10 e mezza di entrare qua perché lascio tutto acceso, sollevare il volume non c'è nessuno, alle 8 in poi, 8 e mezza non c'è più nessuno, vanno tutti a cena e poi non riprende più nessuno, capito? Ehi, chi è che voleva entrare? Giulio, sei tu? No, sembrava un segnale suo, vabbè. Vabbè Claudio, adesso stacco, mi monto il computer qua e faccio due cosine, devo stampare anche roba, moduli eccetera. Dai, codice esecutivo, Gianni dovrebbe rientrare, se è al telefono. Ci sentiamo, ciao, buona serata, anche agli ascoltoni, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Non hai fatto avere il segnale Giulio, sto parlando io. No, prima quando ti eri allontanato, hanno fatto un fischio, credo fosse Giulio. Un tipo 9.15, 9.20 circa. Ah, poi aveva risolto quella cosa del dell'apparato che dice che usciva un 15 watt, non riusciva a regolare bene i watt, insomma. L'aveva risolto? Sì. Sì, lo abbiamo fatto proprio l'altra mattina, andava benissimo. Ma era un po' di ossido, un po' di roba nella protezione, gli ha spruzzato uno spray, un pochino di spray, mi ha detto, adesso ci va bene. Ok, ciao Marco, buon QRT, sentiamo più tardi se coincide, siamo buon fine serata, ciao. Ehi, hey, ciao. Massimino Bulldog, ci sei, cambio. Attento Massimino Bulldog, ascolti lo sparviero. Mamma mia, come sto? Che è la pappa, chi è? Chi è? Avanti, chi è? Chi sei? Rosso, tu sei? Attento, platinette. Attento, platinette. Con il mortorio. Io sono preoccupato, sì. Ehi. Se mi facevo il radio. Telefono Gianfranco, fai entrare, mi fate una chiacchierata. Ehi, qua è acceso con un volume minimo, ma è mortorio, Gianni non ha ripreso, pompone lo stesso. Va bene. Ma ancora vediamo se ci sono radiomatori da ascoltare almeno. Solo PMR, no? PMR privati, attività commerciali, pizzerie. Ehi, intanto mettere più di gente. Se vuoi ascoltare. Ma io ci ho tutto spento, c'ho il 30, il 40 e il 14 acceso, basta. Poi più o meno, il resto è tutto spento. Ehi, ho sentito anche tipo ristorante, diceva, che dice, ci ho sentito la parola servire a tavolino, oppure qualche bar sarà. Usano il PMR, ma probabilmente un ristorante, una pizzeria. Ah, qua c'è qualche albergo, qualcosa di grande, usano anche un ristorante, una pizzeria. Sono i chili, tanto più di 6 persone non si possono sedere, quindi. Ma l'altro iaio sta diventando, per carità. L'altro giorno ho sentito di nuovo quei bambini facendo casino, però erano sul 2, su un altro canale. Ma non c'è la bulotto che facevano, ho dovuto escludere quel canale dalla scansione perché sennò stavano sempre urlando, mandando il cicalino, un casino. Erano quelli che avevi preso a voci sul 7 quella volta, ti ricordi, la bulotto. E secondo me non ero omologata, perché se arrivavano forti a te, forti a me, deve essere qualche bau. Allora, roba che usano i genitori, sono da arrestare, allora devo mettere in mano un bambino a giocare a nascondino. Stavano giocando a nascondino, tra l'altro sul 7, gli ho avuto un fichiere, ho visto i pariti e... non ho capito. Vabbè, cosa vi dico? Non so cosa dirti, io... se posso modulare, modulo, se non posso modulare, sto in silenzio, non è che vivo di radio. Via. Invece non questa domenica, l'altra domenica, quando sono andato in giro con il ricevitore verso Porto Torres Platamona, no? Ho sentito che ce l'avevate in PMR con gente che stava entrando sul canale nonostante fosse occupato da voi. Ho sentito la parola o camper o camperisti o turisti, una cosa del genere, però io sentivo solo voi, non li sentivo quelli. Probabilmente quelli, Claudio, se erano che adesso in colonna o in gruppo di più macchine, hanno messo il subtono, quindi anche se voi gli dicevate roba, loro magari non vi sentivano, perché col subtono si sentono esclusivamente tra di loro, capito? Quindi ha voglia di dirglielo, spostatevi, no, non sentono, non, lo squelci li rimane chiuso, capito? Era lì che faceva Budi, perché sentiva, copriva Luca, capito? A Luca del Monte, però non Luca Flip. E vabbè, e purtroppo quando sono ritrovato è un casino, cosa vuoi fare? Io una volta mi ricordo, negli anni 90 forse, 88, 89, 90 mi ricordo, avevo il TR 922, che era in stand-by, perché io lo tenevo sempre in stand-by, come fa facevo con le, come faccio? Adesso l'ho staccato, l'ho tolto, perché tanto non lo uso, se non me lo fanno ritogliere, però per il momento è nell'armadio, quello grande della IAS. Era in stand-by. C'erano, io stavo volando sul 5, non mi ricordo con chi, e c'erano questi camionisti alla piana di Campello, ma arrivavano un bel forte, e mi davano fastidio con quello che stavo modulando io dentro il sassare. L'ho detto una volta, gli ho detto due volte, gli ho detto tre volte, niente. Alla fine ho giocato, ho tirato su il TL922, ho fatto un preaccordo, ma leggero, non intorno ai 800-950 watt. E mi sono messo a parlare, tranquillo e sereno, col 440, anzi no, col 430 avevo allora col TL922, perché avevo comprato tutte e due da Mario Montari. E mi sono messo a parlare tranquillamente. Mi davano sempre fastidio, ma facevo finta di non sentire niente. Alla fine mi telefono Mario Babbo Natale, me lo ricordo come oggi. Mario Babbo Natale, che era praticamente un centinaio di metri più avanti di loro. E mi ha detto, c'è un'altra via, il canale 5, quando arrivo a Sassa ti ammazzo. Cazzo, non riesco a sentire a Costantino che ce l'ho 100 metri dietro di me. Ah, se vuoi sì funziona allora. C'ho con mezz'ora che a Costantino, che sono con i trendi, mi spostassi il canale, che ci sono io qua e non intendi. A Vicola che già intenda va. Me la ricordo questa cosa, me la ricordo. Sì, diciamo un po', quando parlavano tra di loro facevano finta di non sentire tutto il resto loro, sul 5. Adesso manco sul 5 li senti più, spariti anche loro, si sono tutti travasati in, come si chiama quel programma, CB Talk, quella roba lì. Peraltro comodissimo è come programma, parli dal polo nord, dal polo sud, non rischi nulla, né lineari, né Alan 48 Colt, eccetera. E poi che altro, boh. Dai, mi sto un po' arenando, dai, mi devo concentrare a quello che sto facendo, se no non è capo piedi. Gianni non è più rientrato, vabbè, Claudio ti saluto, allora mi abbasso il volume al minimo possibile, se c'è qualcosa da ascoltare bene e mi fa compagnia e proseguo con questa roba qua, ok? Dai, sentiamo, ciao. Ciao, io sono qua, io, Gianni al telefono, sono qua. Ah, ti volevo dire, sai che esistono anche baracchini con i subtoni, cioè baracchini della 27 omologati, come voi, con i subtoni. E tu dici a cosa serve? Per esempio, hai presente quegli 8 canali sotto l'1, no? Che erano riservati a vari servizi, tipo i 43 MHz, no? Se oggi qualcuno decidesse, che ne so, che ha un'azienda di taxi, si potrebbe mettere i baracchini, chiedere tutte le licenze necessarie, perché lì si paga, perché sono, vabbè, frequenze per usi particolari, e con l'uso dei subtoni si sentirebbero solo tra tassisti o con la centrale, capito? Senza interferenze, QRM, frusci, fischi, fiaschi, capito? Però sono poco usati, cioè subtoni 27 non usa nessuno, no? Non ci sono più attività. Una volta, tanti anni fa, non c'era un carro attrezzi che parlava sotto l'1, ti ricordi? Un carro attrezzi, non mi ricordo se era quello dove andava la municipale anche, che faceva le rimozioni. E visto che c'erano ragazzi giovani che modulavano dal carro attrezzi, c'era Paoletto sempre su quel canale di sotto, perché, capito, perché ha trovato carne fresca. Sì, che la tristicità non c'è, già me lo ricordo. L'ultimo anno, prima di andare in pensione, Antonio Resetti ce l'aveva nella macchina il baracchino che parlava con la centrale, però era a 43 MHz, capito? Ce l'aveva, perché quello che c'aveva glielo ho bruciato io, è venuto a prendermi un giorno, che va a piedi, ma tanto viene a prendermi, perché era qua nella classice via Volante, lui, dove c'è Grazia Loredda, ma tu vieni a prendermi che devo scendere al centro, e dice, intanto venire a prendere lo cliente lì, e quando l'ha sotto mi ha chiamato, io mi sono detto che cerca l'amplificatore, che quando gioco vara dove lavora chi non fumo. Eppure dovrebbe essere protetto contro i sovraccarichi il baracchino, mi pare strano. Può dipendere dal baracchino, però caspita, a bruciarci ricezione, per quanto forte possa essere il segnale. E che baracchino era, te lo ricordi? Un FM 500S era, baracchino forte, aveva un FM 500S. Come ho detto, sto arrivando, si è spento il baracchino, non ha teso più, non ha fiato di bruciato originale. No, segnale tuo forte, non il baracchino forte, il FM 500S, era come l'Alan 68S, come il 548, grosso modo era come l'Alan 48, io li consideravo poco, così come sono, vabbè, omologati, non vuoi da nessuna parte, c'aveva una modulazione anche un po' cupette, dovevi ritoccarli, fargli tutte le migliorie, anche quelli li potevi fare tipo doppio modulatore, un bel di roba potevi fare. Giusto per la concessione l'avevano comprato il FM500S da Cineradio, mi pare 200.000 lire dall'86, o no, 85, 200.000 lire, un bel, per quello che era quella cacca di baracchino, era un bel. Mi pare che da poco l'ho regalato a Pomponi, proprio quella FM500S. Sì, ce l'ho avuto anche la FM500S. E a Daniela e a Coso, i miei vicini qua, c'è ancora l'antenna, c'è una, come si chiama, non so che l'antenna sia buona, c'è per lei forse, quella che aveva l'auto radiale, mi sono reso rimasti lui, è un pochino piegato anche, c'è la 140, l'avevo completamente distrutto lo smitter, praticamente l'avevo fatto proprio... è andato oltre il DB, si è fermato lì, non tornava più indietro e si è piegato l'ago. Sì, a piegare l'ago addirittura, all'anima. Può dipendere tutto lo baracchino, certi non erano il massimo, molti tendevano a saturare parecchio in eccezione, bastava che ci fosse un segnale sopra i 9220, da 9.20 in poi erano saturi, dovevi attenuare per dare un controllo, saturi di radio, e va bene, dai, di nuovo, sono qua, non ne cavo piedi, dai, bravo, ti devo salutare, dai, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao, buona serata. Ciao, io sono qua, ti ho detto, non c'è problema. Come detto l'altro giorno, è mezz'ora che sto chiudendo e non chiudo mai. Ciao, quelli. Chiudi, già sono qua. Attenzione, cari amici. avanti canale 10, avanti. Attenzione, avanti canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10. Attenzione, attenzione canale 10. Chi è che chiama il canale 10, avanti? E capa, chi sei? Antonio Bombo da Sassari, avanti. Antonio da Sassari, chi è? Avanti. Chiama, chi chiama? Avanti, Antonio, capa. Avanti, avanti, chi è? Sì. Due moduli. Ma dove moduli tu? Avanti. KK, mi senti lì a bancale? E K, ma poco fa non mi sentivi che ti stavo chiamando? Ma cosa c'è? Un antennino o tu un'antenna grande? Cosa c'hai? KK, è bello logico che è. Comunque già arrivi lo stesso qua, arrivi un segnale di 7, arrivi. La radio è un pochettino bassa, dai. Ma adesso ti sento un pochettino meglio, tu come mi senti? Sento bene. Ma K, dai. Non ho sentito bene chi sei. Sono Babbo Natale. Buonasera Babbo Natale, buonasera. Sono buonissimo. Ma K, ma sei da molto che non moduli? K, ma chi sei? Mario Babbo Natale, quello che, se non mi ricordo male, no? Mi chiamo Giacomo. Giacomo. Tu da dove stai modulando? Io sto modulando la zona Corso Vico. Tu se non fai un po' di bambole. Mamma mia, ma chi sei? Cosa sei? Adesso non mi viene. Marino sei? Pare che sei tu, mi pare. Assicuro il gioco. Capo, adesso sono io comunque, dai. Ma tutto ok, dai, mio, ho sentito a te, sono entrato un attimino. A vedi un po' caretto. Non sono andati. Di solito la sera fermo sempre un guascio, fermo. Ti ha visitato per le visioni. Care. Nessuno la sera. Ci sapete, sono toccati io già tu. Sono io fatto la cantina fino alle 4:30, sono da casa. Sempre mangiare qualcosa, le scappucciate, non sono visto da sera. Una stanchezza, dopo. Io. La sera sono Gianni. Sono Gianni. Ciao Antonio, Antonio Popolo, e ciao Marino, Franco da Sosso. E adesso qua sono conosciuto, adesso, e la mezza mutazione di Gianni. Ciao, avanti a tu. Buonasera anche a te, chi era che non sono riuscito a riconoscerlo molto bene? Franco di Sosso. E buonasera Franco di Sosso, buonasera a lei. Buonasera Antonio, ben ascoltato dopo tanto. Ti ascolto bene qua, arrivi benissimo, arrivi un segnale di 5-6 e radio 5. Vabbè, non vi raggio più l'antenna, va vi raggio un'altra gubicciuria vi raggio. Capo, no, già arrivi bene, dai, tranquillo. Bene, vera. Oh, io ho sentito Marino che stava facendo un bidone e mi sono rimasto qua a ascoltare. Va bene, dai. Comunque Marino, la giornata di regia, dovevi essere più calmo. Ok, dai, ti saluto Antonio, che devo andare a cena. Ci ascoltiamo, ciao anche Marino, con tutto, dai, con Prosegue ci sentiamo. Avanti Marino. Ciao, grazie, ringrazio. Buona carica, sono in casa. Io sono la stanchezza, sono stanco, non riesco a mezzo dell'intanto. Ok, di nuovo grazie, buona traccia. Avanti il tuo, anch'io faccio un altro passaggio e chiudo che mi sta chiamando in porto. Avanti il tuo. Scappa, vai, salutone a te, salutone Franco, salutone Marino, vai, ci risentiamo. E via, ciao ciao, vai, che io vado a vedere giù che può essere pronto a mangiare. Ciao ciao. Ciao, non so come sentite, non mai se tu ci vai, faccio un ciao, ciao. Scappa, vai, ciao a tutti. Ebbè. Avanti, avanti. E beh, tu. Ehi, Luca, buonasera. Andiamo, beh, andiamo. Sì, oh. Attenzione, la Twitter. Ehi, Luca. Anto, ma c'hai il PMR? Che c'è? C'hai, puoi accendere, mi chiami, prova a chiamarmi. Un poco barreduccio, ma già funziona. Sul canale 7 sempre, dai. Ehi, prova, chiama. Capa. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto, capa.